Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City, quarta puntata dello speciale dedicato alla nuova corsa allo spazio. E questa sera finalmente ci spingiamo oltre l'orbita, dove non usiamo avventurarci ormai da 45 anni, dall'ultima missione Apollo, la numero 17 del 1972. Ma diamo il bentornato al nostro ospite, l'astronauta Umberto Guidoni. Buonasera Umberto, bentornato. Buonasera a voi. Allora, fondamentalmente sono due i progetti che guardano oltre l'orbita e hanno anche, direi, due filosofie molto diverse alle spalle. Partiamo dal primo, che è nel filone della NASA, il progetto, la capsula Orion, sviluppato proprio su ordinazione, diciamo così, della NASA da Lockheed Martin. Allora, intanto, se ce lo descrivi. Sì, anche in questo caso si tratta di una capsula ovviamente con una differenza sostanziale, che è progettata per andare oltre l'orbita terrestre, quindi anche per gestire missioni verso la Luna e in previsione più lontana anche verso Marte. O con una possibilità magari di arrivare sugli asteroidi, no? come destinazione intermedia, si dice spesso. Sì, esatto, quella potrebbe essere un utilizzo anche, diciamo, appunto intermedio fra quello lunare e quello verso Marte. Quindi è dotata di un sistema di lancio tradizionale, appunto, di nuovo parliamo di razzi come quelli che... Quindi viene montata, diciamo, sulla cima di un missile, sostanzialmente, è la classica capsula troncoconica come forma. Esatto, Esattamente, molto simile a quella della Boeing, per capirci, che infatti in parte lavora anche su questa. Il lancio avviene attraverso un razzo tradizionale, arrivato in orbita il sistema ha la cabina di pilotaggio dove vivono gli astronauti più un sistema, diciamo così, orbitale, quello che viene chiamato il modulo orbitale, che fornisce per esempio l'energia attraverso dei pannelli solari e il sistema di controllo di assetto del veicolo, quindi razzi di controllo più i razzi per fare cambiamenti di rotta. Cambiamenti di orbita e anche per fare poi la fase di manovra di rientro. Nel caso lunare ovviamente anche il razzo che poi permette di uscire dall'orbita terrestre e andare verso la Luna. Ecco, c'è un numero che mi ha colpito, si diceva 30% in più di spazio rispetto a quello della navicella Apollo, dove però gli astronauti erano più o meno nelle condizioni delle galline negli allevamenti intensivi. Ora uno può immaginare di fare un viaggio che magari non sia di pochi giorni ma di settimane in una condizione del genere? Perché dunque, la navicella è pensata ipoteticamente addirittura per Marte, no? Sì, in realtà io credo che la capsula verrà utilizzata per Marte solo come veicolo di trasporto dell'equipaggio da Terra verso l'orbita, però sarà agganciata a un sistema più grande che inevitabilmente sarà diciamo quello che conterrà l'equipaggio per tutto il viaggio di mesi dalla Terra verso Marte e ritorno. Invece per la Luna credo che sia quello lo spazio a disposizione, sarà molto più grande e conterrà circa 4 astronauti. C'è anche un progetto che si chiama Mars Base Camp, che è un progetto Lockheed Martin, che è una struttura che dovrebbe, una specie di stazione spaziale che dovrebbe ipoteticamente restare in orbita intorno a Marte e che vede un certo utilizzo della Orion. Come vedi questo progetto? Sì, diciamo questo è uno dei possibili progetti che va associato alla Orion, cioè non sarà sicuramente lei, appunto come dicevi, la capsula che porterà gli astronauti verso Marte, perché semplicemente è impossibile vivere in 7-8 mesi, ma anche semplicemente avere tutto quello che serve per poi... Per un viaggio che dura un anno, 2 anni, cose del genere. Quindi sicuramente va associata a un altro veicolo che possa essere, diciamo, capace di mantenere in vita un equipaggio anche ridotto, ma comunque per tempi così lunghi. Mars Base Camp però è una specie, diciamo, di due navicelle Orione, no, attaccate, con in mezzo appunto uno spazio abitativo. Sì, esatto, e quindi è un po' appunto il polmone che servirà durante la fase di viaggio verso Marte, mentre le due capsule sono per ridondanza, quindi ce ne sono due per garantire... C'è, diciamo, due di tutto, esatto. E veniamo al progetto concorrente rispetto a Orion Lockheed Martin, che è il progetto di SpaceX, e intanto la sua Red Dragon, ce ne puoi parlare? Sì. La Red Dragon dovrebbe essere appunto come dire, il modello successivo rispetto alla Dragon 2 che porterà gli uomini dalla Terra verso la stazione spaziale, quindi un veicolo pensato per affrontare appunto il lungo viaggio verso Marte e poi per atterrare su Marte. Devo dire che questo veicolo adesso è abbastanza in dubbio, sia perché ci sono le stesse preoccupazioni che dicevamo prima per Orione, no? per il veicolo Orione, cioè è un po' troppo piccolo, sì, per immaginare che possa portare gli astronauti fino sulla Luna, e poi perché la decisione di Musk, di SpaceX, di tagliare l'atterraggio controllato con i retrorazzi, di fatto impedisce anche l'atterraggio su Marte. Quindi io credo che questo progetto in qualche modo vada ridimensionandosi e probabilmente a sparire, forse anche anzi addirittura a sparire, e risente del, come dire, del rilancio che Elon Musk, sì, ha fatto rispetto al progetto originale. Perché c'è stato questo annuncio recentemente di Elon Musk che ha detto adesso come dire, abbandoniamo sostanzialmente tutti i filoni di ricerca che abbiamo seguito finora e ci concentriamo su un unico oggetto, progetto ancora molto sulla carta, BFR. Se ce lo descrivi, è una cosa eccezionale, almeno sulla carta. Sì, diciamo, già il nome, tu sai cosa significa BFR? No, in realtà no, non ricordo il nome dell'acronimo. No, è l'acronimo di Big Fucking Rocket. Ok, è vero, sì, giusto. Per dire una cosa eccessiva, insomma, una interpretazione. Quindi BFR è effettivamente un razzo che in teoria dovrebbe partire direttamente da Terra, fatto in due moduli, uno che contiene il combustibile e l'altro che contiene fino a 100 persone, quindi immaginate le dimensioni di questo razzo, alto, diciamo, di questa parte alta. Sarebbe per la prima volta un oggetto più potente con più capacità di lancio rispetto al Saturno 5, credo sarebbe e anche all'SLS che la NASA sta costruendo per Orione, per la capsula Orione. E quindi questo razzo si solleverebbe da Terra, arriverebbe in orbita, la parte, diciamo, del combustibile, il primo stadio che ha esaurito il combustibile, ritornerebbe giù in maniera automatica e farebbe rifornimento per riportare poi in orbita questo carburante alla nave che è rimasta, diciamo, alla parte che è rimasta in orbita. Okay. E che con questo carburante si metterebbe in viaggio verso Marte sostanzialmente. Ecco, quindi parliamo in questo caso di una navicella che sarebbe larga una decina di metri e avrebbe posto per 40 cabine e 100 persone. Insomma, tu come lo vedi questo progetto? Perché insomma Musk da un lato tende a fare annunci un giorno sì e un giorno no, dall'altro però alcune cose sorprendenti le ha fatte, come appunto riuscire a far riatterrare i primi stadi di lancio dei missili. Certo, no, sicuramente ha dimostrato, diciamo, che qualche cosa è capace di farla, forse qualche volta esagera nel lanciare avanti la palla, e credo che questo sia uno di quei casi, perché francamente per poter sollevare una massa di questo genere ha bisogno di decine, mi pare 42 razzi del tipo che sta sviluppando per la Dragon 2, e francamente diciamo, metterli tutti d'accordo, questo diciamo, bilanciarli nel modo giusto è una bella sfida, così come è una bella sfida diciamo, l'idea di lanciare centinaia di persone alla volta, insomma, no? Va bene, grazie ancora una volta Umberto Guidoni, e alla prossima. Allora, alla prossima senz'altro. Grazie a tutti, appuntamento a domani, quinta puntata dello speciale sulla nuova corsa allo spazio.